sfogliando quaderni di pagine nuove, giocando con sensi non con le parole, lanciando messaggi di fumo e d'amore. Che cos'hai? Da che stella tu vieni mai? Quale mondo abiti? Nel tuo petto hai battiti? Cosa cerchi? Se tu cerchi, sono umano, vengo da un pianeta strano, puoi vederne forse i tetti tra un'infinità di oggetti, è che cerchi, se tu cerchi, più di uno spazio inquinato dalle cose. Trappole vuote spesso, mine inesplose. Sciamani nelle mani, l'immensità, lasciamo il mondo alla sua crudeltà. Sciamani tra le dita, l'eternità, cangiamo il tempo con la sua lenta. Sciamani nelle mani, l'eternità, lasciamo il mondo alla sua crudeltà. Sciamani tra le dita, l'immensità, fuggiamo il tempo con la sua lenta. Dobbiamo fuggire perché questa puzza non ci fa dormire. Chi spezza una donna come fosse un fiore, chi mola se stesso per disperazione. Che cos'hai? Da che tempo vieni mai? Quale era abiti? Hai poteri magici? E se cerchi, cosa cerchi? Sto lontano, provo un desiderio strano, vorrei perdermi tra i tetti, sorvolando i caminetti, e che cerchi, cosa cerchi? Più di una vita impastata dalla guerra, per una fonte nera, per una terra. Sciamani nelle mani, immensità, lasciamo il mondo alla sua crudeltà. Sciamani con le ali, vogliamo andare, lasciamo il giorno alle sue cosità. Sciamani nelle mani, l'immensità, lasciamo il mondo alla sua crudeltà. Sciamani con le ali, vogliamo andare, lasciamo il giorno alle sue cosità. Sciamani. Sfogliando quaderni di pagine nuove, giocando coi sensi non con le parole, lanciando messaggi di fumo d'amore. A volte dal mondo dobbiamo fuggire perché questa puzza non ci fa dormire. Chi spezza una donna come fosse un fiore, chi mola se stesso per disperazione. La vista del mondo può farti impazzire di fronte alla furia che non fa dormire. Chi senza vergogna ti chiama finocchio, qui dente per dente di occhio per occhio.